Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ieri panico vero e proprio, perché di questo si tratta, con un lunedì che si è trasformato in un incubo per le migliaia di persone che transitavano per il principale scalo romano. Allora, cosa è successo? Un uomo con un fucile giocattolo, appunto, ha creato il panico. Quest'uomo adesso ha un volto, ha un nome ed è stato fermato finalmente ad Anagni. Eccoci, Marco. E adesso sentiremo anche la sua versione, il suo racconto di come è andata. Ormai sembra tutto abbastanza chiaro per quanto riguarda la dinamica. Siamo qui alla stazione Termini. Questa è la scala mobile che porta dalla stazione della metropolitana direttamente dentro la stazione Termini, per farvi capire qual è il tragitto che ha fatto quest'uomo. Ha fatto un paio di stazioni dentro la metropolitana, linea B, poi è arrivato qui alla stazione ed è andato al controllo biglietti. Il controllo biglietti è quest'area della stazione che viene dove vengono controllati semplicemente i titoli d'accesso alla zona dei binari, nel senso che si può entrare anche armati in teoria, ma viene controllato ovviamente il biglietto per evitare i portoghesi di intrufolarsi o gente che non ha il titolo. Il discorso è che gli addetti ferroviari, gli addetti di Trenitalia, non sono ufficiali di pubblica sicurezza, non possono fermare le persone. Se notano qualcosa di sospetto devono avvisare la polizia, che ha delle pattuglie in giro per la stazione, ne abbiamo incontrate tante. È chiaro, l'accesso ai treni alla stazione Termini può essere fatto soltanto da chi ha il biglietto, se uno c'ha un mitra in mano, che discorsi, non è compito loro fermarlo. Devo dire che con il senno del poi possiamo anche forse farci qualche amara risata, ma ieri non è stato un bel momento, soprattutto noi che abitiamo professionalmente di fronte alla stazione Termini come radio. Beh, ieri pomeriggio è stato un pomeriggio abbastanza concitato, improvvisamente evacuata la stazione Termini, improvvisamente abbiamo visto poliziotti in assetto di guerra ovunque, la gente presa dal panico correva ovunque, accendevamo la televisione diretta a Sky, di cui abbiamo sentito un pezzo, sembrava che veramente ci fosse qualcuno con un mitra in mano che si aggirasse per la stazione Termini. Poi abbiamo visto che era un pizzaiolo romano che aveva comprato il fucilletto di plastica al figlio con il tappo rosso e lo stava portando con il trenino in una zona limitrofa a Roma. L'avrà fatto apposta, l'avrà fatto per provocazione, o semplicemente che era preso dai suoi pensieri, non ha fatto caso al fatto che un signore che girasse, anche se con l'impermeabilino azzurro e le scarpe a punta, che l'hanno subito identificato, con un mitra in mano, poteva almeno incartarlo, ma forse l'avrà comprato in una bancarella, è pieno di venditori di giocattoli abusivi di fronte alla stazione Termini, magari avrà voluto fare un pensiero al bambino, avrà comprato il mitra dal venditore di giocattolini di plastica di fronte alla stazione, non avrà pensato a inquattarlo in qualche maniera, o avrà voluto fare la prova, avrà voluto essere protagonista. Poi oggi, figuriamoci, sarà interrogato, lo vedrete dal pomeriggio ospiti tutti i salotti televisivi, lo interrogerà Barbara D'Urso, lo interrogerà Cucù, lo interrogerà chiunque in questo momento sarà pronto ad averlo. Già immagino le redazioni che staranno lì a scalpitare, andranno a cercare la madre separata, il povero bambino. Bambino, cosa provi a giocare con il fucilletto che ha messo sotto panico tutta Italia? Poi l'altra notizia che fa ridere un po' meno. È un giovane marocchino di 25 anni, Hamil Mehdi, radicalizzato e residente a Luzzi, arrestato all'alba dalla Polizia di Stato di Cosenza. Le indagini dei poliziotti della Digos di Cosenza e dell'antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nei confronti del marocchino arrestato sono iniziate nel 2015. L'arrestato, infatti, il 10 luglio aveva raggiunto la Turchia, ma è stato fatto rientrare in Italia dopo che le autorità turche, d'intesa con gli uomini dell'antiterrorismo italiano, ne avevano evidenziato la pericolosità, respingendolo per motivi di sicurezza pubblica. Il 25enne è giunto a Luzzi nel 2006 con i suoi fratelli, tutti più piccoli, e con i genitori. Questa radicalizzazione ha assunto dei connotati piuttosto spinti e c'è un isolamento innanzitutto anche dai familiari. C'erano liti continue anche verso i parenti o verso il fratello solo perché il fratello telefonava alla fidanzata in sua presenza. Eravamo a questi livelli. Non andava a mare perché io non sto facendo questioni religiose, però non andava a mare assolutamente dove ci potevano essere donne in costume da bagno e non guardava persone che potevano avere, se non avevano il capo coperto. Chissà perché il pelo femminile è sempre all'apice di tutti i terrori, di tutti i terrorismi proprio in questo momento. Ha paura di contaminarsi frequentando posti dove c'erano donne. Ma visto che è un po' di giorni che stiamo parlando dell'Italia a due piazze divisa sulle nozze arcobaleno, torniamo un attimo a problemino che forse ci tocca anche direttamente più da vicino, sul quale possiamo avere anche un pochino più di attenzione. Qual è il punto della situazione rispetto all'incubo o l'incombere del terrorismo islamico in Italia? 800240024, qual è la vostra percezione? Sembra tutto finito? Aspettiamo il prossimo grande attentato in una città europea per stracciarsi le vesti, scendere in piazza? O naturalmente si era sopravvalutato il pericolo, ma questi sono segnali che fanno pensare? Basta un fucciletto di plastica per far scattare il grande allarme? Un venditore di tappeti sessuofobo può essere rappresentativo di un terrorista di cui dobbiamo aver paura? A tra qualche istante. Melog, cronache meridiane. La premessa mi sembra sia stata esaustiva. Il tema di oggi è capire esattamente, al di là della lettura che si può fare delle notizie sui giornali che hanno diversa evidenza a seconda anche di quello che è il peso della giornata rispetto a tutte le notizie di ogni tipo, capire se esattamente esiste un piano nazionale reale, concreto, efficiente per contrapporre quelle che sono gli allarmi che ci arrivano da anche istituzioni importanti, qualificate. Il direttore di Europol, oggi sono piene le pagine dei giornali, dice ci sono 5.000 terroristi pronti ad attaccarci, pronti a colpire come è accaduto a Mumbai. La cosa che mi viene a pensare è sembra che in questi, come dice Europol, affiliati e possibili terroristi sono stati a cercarsi proprio le persone che hanno dei problemi mentali, cioè malati di mente. Non sa bene cosa significa malati di mente, ma persone comunque con delle fragilità, non so attraverso quale sistema possono essere reclutati, faremo capire in che maniera, che hanno delle fragilità e sono maggiormente, diciamo, indottrinabili, come appunto il venditore di tappeti marocchino, per poter prefigurare una sorta di fine eroica, di sacrificio eroico, di atto finale che permetta loro di entrare finalmente nell'agognato paradiso. Alfredo Mantici, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Alfredo Mantici è direttore della rivista geopolitica Lookout News e l'ex capo del Dipartimento Analisi del SISD. Io l'ho introdotta mostrando i due episodi che oggi maggiormente dovrebbero far riflettere rispetto al panorama internazionale e soprattutto alla situazione nostra. Partiamo dall'episodio della stazione Termini. Lei trova che sia stato un test positivo, cioè nel dimostrare che c'è attenzione generale, la signora che l'ha segnalato, la polizia che è subito intervenuta, o c'è qualcosa anche in questo che potrebbe creare il problema di falsi allarmi a catena e che poi distolgono i reali obiettivi? Guardi, quello che è successo è anche indicativo di un clima che l'ISIS è riuscita a creare nelle nostre opinioni pubbliche europee diffondendo video allarmanti, truculenti, sanguinosi. Quella è la loro strategia, fa parte della guerra. La loro strategia mediatica fino adesso ha avuto successo, perché noi, particolarmente noi in Italia, io ritengo siamo molto più impauriti di quanto la situazione reale non renda necessario. Quello che è successo ieri alla stazione Termini è un esempio un po' dell'isteria di massa che scatena delle reazioni, ma dobbiamo prendere, vedere il bicchiere mezzo pieno, la reazione delle forze di polizia, pur in presenza di un allarme infondato, è stata efficace. Quello è assolutamente vero, è stata mobilitata in pochissimo tempo. È stata fatta l'operazione un'esercitazione. Diciamo che è un'esercitazione a tutti gli effetti. Un'esercitazione ed ha funzionato. E questo le mi posso fare una domanda però, ma se il fucile fosse stato vero, è improbabile che un terrorista lo faccia vedere prima di usarlo, questo è chiaro, se il fucile fosse stato vero, quale sarebbe stato, diciamo, l'esito dell'operazione? Allora, Nicoletti, di fronte al singolo, come in Israele ci sono i servizi di sicurezza e di polizia più efficienti del mondo, di fronte all'intifada dei coltelli, e cioè di fronte al singolo palestinese non collegato organicamente a un gruppo terroristico che esce di casa con un coltello da cucina e accoltella il primo israeliano che trova sul marciapiede, nei confronti del singolo, diciamo, disperato o esaltato, non c'è prevenzione, perché non si possono prevenire le azioni di persone che non si conoscono, si possono prevenire le azioni di gruppi che vengono controllati e infiltrati. Ma non è proprio questo l'elemento originale rispetto a questa strategia terroristica, che è il fatto che attraverso la rete si possono fornire dei pacchetti educational online, come il venditore di tappeti che si stava autoaddestrando. È una nuova forma di terrorismo che penso che nella sua esperienza difficilmente avrà avuto altri precedenti di conoscerla e affrontarla. I terroristi hanno sempre sentito il bisogno di comunicare i loro progetti. Noi abbiamo dicevamo sempre che i terroristi non ci dicono mai che cosa faranno, ma ci dicono costantemente cosa vorranno fare, cioè i loro obiettivi. Le Brigate Rosse usavano i volantini, le risoluzioni strategiche, le diffondevano per diffondere la loro strategia. Oggi tutto questo è reso più ampio e più facile da internet. Internet consente a chiunque di addestrarsi, di autoaddestrarsi senza avere il bisogno dell'interlocutore fisico che viene dalla Siria, raggruppa un gruppo di ragazzi e li indottrina. Adesso questo avviene con internet, quindi anche questo deve cambiare l'approccio delle forze di sicurezza. Ecco, la notizia di Europol di 5.000 foreign fighters pronti a intervenire e questa appendice di questa selezione, scegliendo le fasce più deboli, le fasce più impressionabili, quelli con minori strumenti di elaborazione, perché sono quelli che più facilmente possono essere mandati al macello e all'autoeliminazione. Vediamo di riportarla al di là del lancio di cronaca in termini di generale comprensione in quello che significa veramente questa notizia. Allora, io devo dire dissento profondamente dall'approccio mediatico del direttore di Europol, che ha lanciato un allarme basato, secondo me, su un'analisi statistica e sociologica. Cioè non è che il direttore di Europol è venuto a dirci: io ho i dossier di 5.000 guerriglieri pronti ad attaccare. Il direttore di Europol ha fatto una statistica, ha desunto un dato, tra virgolette, clinico dalla statistica e ha detto all'interno della popolazione, e ha detto in termini secondo me allarmistici, quella che è la realtà, cioè che all'interno della popolazione musulmana si selezionano dei nuclei via via più estremisti, all'interno di questi nuclei ci possono essere soggetti deboli, disturbati, non integrati, che trovano la strada migliore per autoaffermarsi attraverso il terrorismo. Però l'allarme, così come l'ha dato, è stato un allarme, a mio avviso, gratuito e infondato. Sai, io conosco abbastanza il problema del disagio psichico e psichiatrico. Dire seleziono malati di mente sembra quasi, non so, quei film di fantaguerra in cui vengono presi pazzi e mandati a fare azioni suicide. Cosa significa malati di mente? Chi l'ha certificati? Chi ha fatto la diagnosi? Può essere considerato sano di mente ogni terrorista lucido che si fa saltare in aria con una cintura esplosiva? Quindi mi fa piacere che dia modo di dare un ridimensionamento a una notizia che comunque sparata fa molto effetto. Solo un secondo, sentiamo qualche ascoltatore, così Mantici ci può dare degli elementi di maggiore chiarezza. Giuliano, buongiorno. Buongiorno, ma io più che essere sicuro e rassicurarmi, questa azione mi sembra una grossa azione dilettantistica che mi preoccupa un po', perché dalle foto si evince molto chiaramente, diciamo, l'arma, quindi due sono le cose: o aveva il tappo rosso e di conseguenza l'allarme è ingiustificato e dall'azione proprio di dilettantismo e andava comunque fermato il signore perché denunciato per procurato allarme, o se qualora fosse risultato vero è chiaro che andava fermato e denunciato, ma fermarlo e poi lasciarlo andare una volta identificato soltanto perché l'arma è finta, beh, mi sembra proprio, ripeto, sì, adesso poi vedremo da quello che mi sembra aver capito, chi l'ha fermato non aveva fatto un rapporto caso-effetto fra quello che sarebbe accaduto alla stazione, questo signore vede un signore col fuciletto, non sa niente di quello che è successo, ha detto: ma cosa fai con questa cosa in mano? Dice: no, guarda, è finto, sta tranquillo. Dice: vabbè, stacci attento, fine. Avesse visto o saputo quello che stava accadendo, avrebbe fermata la cosa. Diciamo, sono due elementi che non si toccano tra di loro. La foto, l'unica foto che si aveva è quella delle telecamere di sorveglianza, che devo dire che istantaneamente è stata trasmessa in televisione, quindi c'è stata una velocità di diffusione dell'immagine. In effetti forse un esperto potrà capire se l'arma fosse stata vera o finta. Lei cosa da dire, Mantici, rispetto a questa ipotesi del nostro ascoltatore? Voglio dire, poi a posteriori tutti quando sono bravi, grazie. L'irrazionale diventa tutto da un lato più semplice e dall'altro più complicato. lì è successo che probabilmente anche gli addetti al controllo dei biglietti abbiano visto chiaramente che si trattava di un fucile giocattolo e l'hanno fatto passare, quindi diciamo togliamo la colpa a questi addetti che magari si sono resi conto del tappo rosso. Nel momento in cui però qualcuno ha lanciato un allarme formale, la polizia doveva reagire. Il carabiniere di Anagni fuori servizio che ha bloccato questo signore all'uscita dal treno non era stato informato in tempo reale di quello che stava succedendo a Roma. Quindi si è trovato di fronte un libero cittadino con un giocattolo. Che doveva fare? Arrestarlo perché no, assolutamente, chiaro. Cioè, io credo che la concatenazione, la sintesi finale di quello che è successo ieri, consideriamola un'esercitazione, la sintesi finale è che la risposta alla prima minaccia è stata, a mio avviso, rapida e anche abbastanza efficace. Fermiamoci solo un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa, riprendiamo tra un secondo. Melog. Cronache meridiane. Ci ricordiamo che c'è il problema del terrorismo, cosa stiamo facendo e cosa stanno facendo soprattutto le istituzioni. Stiamo parlando questa mattina con Alfredo Mantici, che è direttore della rivista geopolitica Lookout News, ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE, che ci ha permesso intanto di dare già degli elementi di saggezza e di riflessione su notizie sparate su tutti i giornali. 5.000 terroristi pronti ad attaccare, li scelgono malati di mente. Ecco, questo è molto suggestivo dal punto di vista di un titolo di un giornale, fa riflettere, ma vediamo di riportarla in termini di concretezza, perché la concretezza è la maniera migliore per affrontare razionalmente un problema. Sentiamo qualche ascoltatore. Alex, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Io volevo puntare un attimo l'attenzione sul fatto che secondo me non siamo assolutamente preparati a questo tipo di problema. Cioè, io vedo delle cose che mi lasciano esterrefatto. Arriva Rouhani, tra l'altro un negazionista convinto, e noi mettiamo gli schermi dei paraventi davanti alle statue classiche dei nudi dei musei capitolini. Cioè, secondo me noi non abbiamo proprio idea di che cosa abbiamo di fronte. Cioè, gli hanno coperto i pistolini delle statue classiche, se no ci rimaneva male. Cioè, è follia. Sì, è totalmente folle, sì. Abbiamo già riso, ecco, quando fece mettere Andreotti fece mettere le cazzarole alle statue dello Stadio Olimpico. Il Duce l'aveva messi con il gagliardo fallo italico in bello in vista, anche se erano piccolettini rispetto alla proporzione, erano delle cosettine. Andreotti ci fece mettere le cazzarole. La Democrazia Cristiana post-fascista ci fece mettere delle conchiglie per coprirle. Allora, questo per dire che cosa? Che io non sono tanto convinto che noi stiamo sopravvalutando il problema. Secondo me noi non abbiamo cognizione del problema. Ci adeguiamo nella maniera sbagliata a quello che pensiamo possa essere un andare incontro ad una, secondo me, cultura, voglio dire, non civiltà, perché sicuramente è una civiltà, ma una cultura differente dalla nostra, che ha, come tutte le altre culture, cose positive e cose negative. E noi però gli aspetti negativi, cioè questo rischio concreto... No, sto pensando come ha detto lei, scusi, non posso fare a meno di rifletterci. Cioè, i pistolini delle statue classiche non scandalizzano i cardinali, ma scandalizzano però dice sì, è chiaro, per lui era brutto, lo so, è quello. Vabbè. Ma scusa, ma non è possibile cioè accettare, o meglio, prostrarsi in questa maniera nel tempio della cultura occidentale? Vabbè, se a lui dava fastidio, uno dice vabbè, te li nascondo. Ma come te li nascondo? Ma se ti dà fastidio non entrare là dentro? Cioè, non è possibile che tu entri dentro i musei capitolini e poi pretendi che vengano coperti. Vabbè, questo comunque abbiamo capito. Non sconfiniamo nella faccezza. Lei dice comunque, non abbiamo cognizione, siamo pronti a calare le brache di fronte alla cultura diversa dalla nostra, e quindi non avremo strumenti poi per gestirne l'aspetto cruento, l'aspetto estremo. Zac, buongiorno. Zac, sì. Buongiorno, salve. Sì. Mi sente? Sì, Zac, sì. Allora, sinceramente a me viene un po' da ridere, anche se non c'è niente da ridere, quando sento il signore che dice che prendiamola come un'esercitazione. Allora, non siamo capaci di prendere un'Audi gialla con tre malviventi, di cui non erano neanche loro, un'informazione sbagliatissima, che non erano neanche loro, e ora ci mettiamo a dire che per un fucile con il tappino rosso ci mettiamo a dire che prendiamolo come un'esercitazione. Sì, però Zac, io non voglio fare quelle difese d'ufficio, adesso risponderà, ma le cose c'entrano fino a un certo punto. Io direi, separerei gli ambiti, perché sennò facciamo sempre la solita lettura all'italiana. Eh sì, c'è ben altro, capito? Non è esatto. Il tappino rosso è stato già spiegato. Per una serie di circostanze, comunque sia, poteva essere quel personaggio stimolo di un'operazione che in effetti è scattata. L'operazione è scattata. Poi a posteriore è facile dirlo. Se lei fosse stato, come eravamo noi, nei paraggi della stazione Termini ieri, si sarebbe reso conto che in realtà uno stato generale di allarme era scoppiato, e una volta che scoppia l'allarme, che la gente comunque sa che c'è un problema, l'allarme va fronteggiato. Poi a posteriore si è visto, faccia ridere, come pensare che una bomba uno apre in realtà trova un pacco di calzini sporchi, poi ci si ride, ma nel momento in cui viene dato l'allarme c'è poco da ridere. Alfredo Manti, ci vediamo su questi due punti di vista, che è un po' l'atteggiamento generale che leggo negli ascoltatori. Sì, ma c'è ben altro, figuriamoci. Cioè, allora io separerei, cioè, tutti esperti di intelligence all'improvviso, capito? No, vabbè, ma siamo tutti anche esperti, il giorno dopo le partite ne sappiamo esatto, degli allenatori. Io separerei i casi, no? Allora, il primo ascoltatore, Alex, mette insieme la decisione di un cerimoniale della Repubblica che porta Ruani ai Musei Capitolini e copre le statue scandalose con l'attività di prevenzione sul territorio in funzione antiterrorismo. Oh, sono due dimensioni nulla. Completamente diverse, e il caso del marocchino di Cosenza lo dimostra. Noi non ci dobbiamo aspettare dalle nostre forze di sicurezza che vigilino sulla cultura di Rouhani e sulle sue idiosincrasie. Giustamente, hanno e devono avere altro da fare. Sotto certo. controllo il territorio e tengano sotto controllo le persone segnalate o individuate come potenziali estremisti, prima ancora che terroristi. Poi per diventare terroristi ce ne vuole ancora, perché bisogna trovare le armi, bisogna trovare l'esplosivo, cosa che in Italia oggi è tutt'altro che facile. Questa è la prima cosa. La seconda, sulla riflessione del Zac, dice, non siamo capaci di prendere l'Audi gialla. Anche qui mescoliamo le mere con le pele, Un conto è l'attività di polizia stradale o di polizia, tra virgolette, criminale, un conto è l'attività antiterrorismo. Sono due dimensioni completamente diverse. Noi possiamo prendere i terroristi e poi magari non riuscire a prendere l'Audi gialla, ma non c'entra niente l'una cosa con l'altra. Ecco, su una cosa mi conforta, per quello che sa lei, ma anzi è possibile dirlo, esiste una nuova forma di addestramento, di specializzazione nei reparti preposti, mirata proprio a questa nuova forma di attacco, di terrorismo o di allarme, che mi sembra totalmente diversa. Uno che lavorava con le Brigate Rosse oggi deve resettare completamente e riacquisire le proprie informazioni. Ma questo è un lavoro che sia le forze di polizia, con gli istituti di formazione a tutti i livelli, dagli agenti ai sottufficiali, agli ufficiali o ai funzionari, stanno facendo, sia i servizi sia interno che estero, stanno attivamente riacculturando, anzi aggiornando culturalmente i loro operatori, perché altrimenti, cioè, io non posso svolgere neanche in periferia, neanche sul territorio, un'attività di prevenzione contro il terrorismo islamico se ad esempio non so la differenza tra sciiti e sunniti e non conosco quindi quali sono i pericoli che derivano da una forma religiosa estremizzata o dall'altra. Quindi questa attività, siamo sicuri, possono star sicuri gli ascoltatori, viene svolta costantemente dagli istituti di formazione. Noi abbiamo in più, secondo me, rispetto alla Francia, rispetto al Belgio, una polizia che ha un insieme di forze di polizia che hanno una capacità di controllo del territorio in periferia molto superiore a quello delle polizie europee. Allora, proprio su questo volevo introdurre un secondo ospite e un secondo elemento di riflessione, e poi andremo avanti anche assieme ad Alfredo Mantici. Il venditore di tappeti marocchino arrestato a Cosenza è proprio nella città in cui paradossalmente in questo momento, ma già è una tradizione, si sta svolgendo proprio un master sull'intelligence presso l'Università della Calabria, quest'anno poi particolarmente specifico proprio per il controllo di questa nuova forma di terrorismo. Ce ne parla Mario Caligiuri, che è il direttore di questo master sull'intelligence dell'Università della Calabria. Caligiuri, buongiorno. Buona giornata, grazie per l'attenzione. Il master inizierà a fine di febbraio, perché le domande scadranno adesso il 1 febbraio. C'è la domanda di ammissione sul sito dell'Università della Calabria e abbiamo inteso concentrare l'attenzione quest'anno su due fenomeni che sono fondamentali sul nostro territorio e su tutto il paese. Il primo è quello del fondamentalismo islamico legato con l'immigrazione e l'altro quello dell''ndrangheta, che è un peso che incide in maniera negativa sullo sviluppo della regione. Quindi l'intelligence come uno strumento fondamentale per poter prevenire e anche gestire questi fenomeni. Ecco, qual è, diciamo, la sua percezione vivendo a Cosenza in questo momento, essendo la città che ha la prima case history, diciamo, a portata di mano rispetto al problema che state trattando? E poi chi sono le persone che si iscrivono a un master sull'intelligence? Il problema della immigrazione in Calabria è esploso nei primi mesi del 2010 a Rosarno, con dei fenomeni che hanno attirato l'attenzione nazionale ed europea, e quindi il tema adesso è sotto traccia, però è evidente che c'è, anche se nella nostra regione non c'è una presenza di immigrati così numerosa come invece si verifica in altre zone del paese, quelle più sviluppate, quelle che sono collegate con le grandi cinte urbane. Per quanto riguarda invece chi si iscrive al nostro master, sono soprattutto esponenti delle forze dell'ordine, perché l'intelligence è uno strumento fondamentale per il loro lavoro, e così come anche tanti giovani laureati, soprattutto avvocati, ma anche ingegneri e anche appassionati che studiano questa disciplina, che noi vorremmo fosse una studiata all'interno delle università italiane, tant'è vero che domani presenterò alla Camera dei Deputati alle 10 l'ultimo libro della collana del Centro Studi sull'Intelligence dell'Università della Calabria, il cui titolo è Intelligence e Scienze Umane, una disciplina accademica per il dottoressa. Allora, fermiamoci solo un istante, Caligiuri, perché devo dare la linea per le informazioni. C'è una domanda specifica di un ascoltatore, Claudio, a cui poi che faremo ascoltare in diretta, e lei in qualche maniera cercherà di darci una risposta. Vuol sapere quali possono essere eventuali rapporti, visto proprio il tema del vostro corso di intelligence, fra la malavita organizzata territoriale e queste possibili nuove frange di terrorismo. Tra un istante. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, stiamo parlando di intelligence, stiamo parlando di prevenzione, stiamo parlando di rettifica e razionalizzazione, quelle che sono le notizie che arrivano a flussi, arrivano secondo i momenti, arrivano secondo la carenza o l'assenza di altre notizie riguardo a quello che è il terrorismo di matrice islamica nel nostro paese. Claudio ha una domanda. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io riflettivo su questa cosa. Uno dei grossi mali, forse uno dei più grandi, forse il più grande in assoluto, che sono le mafie. In questo caso ci potrebbero tornare utili. Mm. Controllano il territorio, credo che insomma lo facciano in pochi, quindi magari ecco collegamenti con i nostri... Ma lei cosa prefigura? Una sorta di patto estremo con la malavita organizzata, diciamo... In cambio, sì, cosa darebbe lei? Scusi. Secondo me, ma lei cosa darebbe in cambio? Se lei fosse lo Stato, che già di patti via via se ne è parlato parecchio, un patto così scellerato cosa darebbe però in cambio? Io questo ovviamente non lo so, era venuto in mente il fatto del controllo del territorio, ecco, ripeto, le nostre mafie in questo caso ci potrebbero tornare utili, perché una volta i servizi... Ah, lei dice indirettamente, se questi cominciano, come accadde razionalmente certificato al tempo del terrorismo in Italia, quando a un certo punto i terroristi creavano una maggiore attenzione sul territorio, chi aveva affari loschi sul territorio ha detto: beh, a un certo punto questi ci stanno rompendo le scatole anche a noi, hanno agito di supporto. Ma vediamo un attimo se può darci qualche risposta Alfredo Mantici, al di là proprio di tutte le battute, non c'è niente a far battute, ricordo direttore della rivista Geopolitica Lookout News e ex capo del Dipartimento Analisi del SISDE. La buttata penso l'ascoltatore come un paradosso, ma quanto il territorio controllato dalla malavita organizzata potrebbe avere, e la pongo diversamente, una sua reazione, come accadde ai tempi della banda della Magliana, che a un certo punto hanno pensato bene che non fosse più per loro un affare avere in giro terroristi nelle loro zone di influenza. Ecco, quanto potrebbe essere, non dico da auspicarsi, ma perlomeno da tenere sotto controllo? I terroristi sono fonte di guadagno in quanto possibili acquirenti di armi, esplosivi, supporti logistici, o sono un impiccio per la malavita organizzata? Allora, la malavita organizzata, come ha detto lei, fa affari sul territorio. Un aumento delle attività di polizia, di prevenzione sullo stesso territorio fa diminuire il volume di affari. E questo, secondo me, sta a indicare che alla malavita organizzata o meno il terrorismo dia fastidio. Dia fastidio perché produce un'accentuazione delle attività di prevenzione e di repressione. Magari produce anche leggi che poi ricadono anche sui mafiosi. Quindi io non parlerei né di patti né di... è una realtà nostra. Però mi scusi, io voglio estremizzare la provocazione dell'ascoltatore. Se veramente ci fossero persone che danno fastidio, penso li troveremmo incaprettati ai bordi delle strade, se dessero fastidio laddove nessuno vuole che si creino fastidi. Il fatto che ancora non siano mossi in maniera così massiccia vuol dire che ancora non lo considerano un pericolo? Ma in realtà non si è mosso nessuno in maniera massiccia in Italia. Noi in Italia non abbiamo registrato l'attività di nuclei terroristi organizzati di matrice jihadista. Abbiamo dei singoli episodi, delle persone che si sono fatte prendere mentre seguivano su internet le trasmissioni, le pubblicazioni dell'ISIS, eccetera. Ma noi oggi un gruppo sul modello Brigate Rosse di matrice jihadista in Italia non ce l'abbiamo, quindi è ancora presto per fare riflessioni di questo tipo. Quello che possiamo dire è che la malavita organizzata e le mafie non possono che trovare fastidiosa la presenza di questa gente che fa stare la polizia sul territorio, posti di blocco, tutte cose che danneggiano gli affari. Questo non è, diciamo, un dato fenomenologico. Ecco, un altro dato che molte volte ho visto esprimere sempre dagli ascoltatori che chiamano, leggono, vanno in internet: è facilissimo trovare armi esplosive, una cosa semplicissima in Italia, e quindi chiunque in teoria potrebbe diventare un potenziale terrorista. Me lo conferma che è così facile trovare armi esplosive? No, non è assolutamente facile, non è assolutamente semplice. Certo, un esplosivo artigianale come quello che usano i nostri anarco-insurrezionalisti, che di solito è una pentola a pressione riempita di polvere pirica o di polvere nera, è facile da fare, ma una macchina esplosiva, un'autobomba, oggi in Italia è difficilissimo farla. Oggi in Italia è difficilissimo comprare una partita di Kalashnikov. Quindi non sarei così ottimista dal punto di vista terroristico. L'Italia da questo punto di vista è un paese difficile, perché è stata vaccinata da un trentennio di terrorismo interno. Noi abbiamo, non mi stanco di ripeterlo, forze di polizia e personale che è cresciuto nel quotidiano un approccio al problema terroristico per oltre 30 anni, e questa esperienza oggi ci torna utile nell'attività di prevenzione e ci torna utile nell'attività di contrasto, per esempio, del traffico di armi. Trafficare in armi in Italia, l'arma spicciola, la pistola con la matricola limata si può trovare, ma la partita di armi sofisticate oggi in Italia è difficile acquisirla. Mario Caligiuri, vorrei una riflessione su quella che è l'informazione e la comunicazione. Nei corsi di intelligence come i suoi, la prima cosa si fa è l'analisi delle cosiddette fonti aperte, tutto quello che tutti possono trovare a loro disposizione. Ecco, chi gestisce anche queste fonti aperte? Quali sono gli accorgimenti di cui deve tenere conto per non creare allarmismi e allo stesso tempo non sottostimare i problemi? Beh, è un problema estremamente delicato, di non facile soluzione e soprattutto di non facile approccio, perché convivono esigenze di tipo diverso. È noto che attraverso la informazione si crea la disinformazione e poi nulla è più nascosto di quello che c'è davanti agli occhi di tutti, cioè quello che è nascosto fin dall'origine dei tempi, come c'è scritto nei Vangeli, è quello che abbiamo sotto gli occhi davanti a noi. Si parlava prima di fenomeni criminali, il collegamento tra i fenomeni criminali e il terrorismo islamico, ma è davanti agli occhi di tutti che è così, perché i fenomeni criminali e illegali si collegano tra di loro. Tu hai fatto il riferimento al terrorismo politico, esistono e sono documentati i contatti tra le mafie e i terroristi. Però esistono finché è un affare per le mafie averci contatti, nel momento che non è più un affare sarebbero i primi a levarsi di torno. Ma certamente, perché l'immigrazione clandestina dal mio punto di vista è favorita dalla criminalità organizzata. Perché ci guadagna e la sfrutta. Pensiamo agli sbarchi, no? E lo dimostrano tante inchieste giudiziarie che si sono realizzate anche in Calabria, sia sotto il profilo delle mafie che dell'Islam radicale, sul quale a novembre di quest'anno ha cominciato a indagare la DDA di Catanzaro, anche la Procura di Reggio Calabria. E non a caso l'intelligence italiana ha inviato una relazione dettagliata al governo sulle infiltrazioni fondamentaliste nelle moschee di tutte le regioni. Per restare in Calabria, sembra che il figlio dell'imam di Selia Marina si sarebbe spostato in Siria per unirsi ai combattenti. Quindi credo che nessun luogo sia immune, anche se Tuccio Mantici, che saluto con grande affetto, è stato rassicurante. La ringrazio Mario Caligiuri, ringrazio Alfredo Mantici. Queste sono trasmissioni che chiaramente non risolvono il problema e non danno altro che alcuni piccoli elementi di lettura ulteriore rispetto a quello che già appare sui giornali. A me questa mattina mi sembrava abbastanza folle parlare della ricerca mirata dei malati di mente, mi sembrava abbastanza singolare l'esplosione di attenzione rispetto a un signore che vende tappeti che è stato preso perché voleva andare in Turchia a fare non si sa che, ma al momento il suo unico grado di istruzione è quello di studiare sul web, come quelli che diventano esperti in qualcosa perché semplicemente l'hanno visto in internet. Grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti, grazie agli ospiti, alla prossima.